molto bella e molto titillante, purtroppo ancora drammaticamente preliminare, nel senso che Charles Elhacik è una persona serissima, di grande calibro scientifico, ha subito detto molecole organiche non biologiche. Cosa significa? Cioè sono i mattoni ma non la casa? Anzi, mattoncini, diciamo, pezzi di mattoni, nel senso che esistono molecole organiche tipo gli aminoacidi, per fare, no? Dei 21 dei quali siamo fatti noi, di cui noi siamo, quelli sono i veri mattoni, noi siamo costruiti di 21 tipi di aminoacidi, cioè delle molecolone organiche belle, belle grandi, complesse, le quali però nello spazio, devo dire, si trovano abbastanza normalmente. Che ci siano delle molecole organiche anche complesse su Marte è molto molto interessante, ma non è sconvolgente. Altra cosa è la molecola biologica, cioè un qualche cosa che è capace di riprodursi in qualche modo o comunque, capisci, qualcosa che è proprio specifico della vita. Lì non ci siamo ancora.